Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto agli ascoltatori. Allora, sarà capitato a te, è capitato a me, continua a capitarmi di trovarmi sul telefono cellulare o anche sul telefono di casa per chi ha ancora il numero fisso, telefonate che ti indispongono un po' perché ti devono vendere per forza qualcosa, farti cambiare contratto e via dicendo, no? È una cosa che capita spessissimo a tutti quanti noi. Sì Francesco, parliamo di una questione assolutamente calda e sicuramente ne abbiamo anche già parlato, però siccome appunto il problema continua ad esistere vogliamo anche dare qualche suggerimento e anche parlare di alcune iniziative che sono state avviate anche da un giornale tipo Il Tirreno, proprio perché per bloccare questo marketing che potremmo definire tranquillamente selvaggio. Tutti noi credo che ogni giorno, almeno una volta ogni due giorni, riceviamo delle telefonate, magari spesso non rispondiamo, ecco, e forse non sappiamo neanche chi sia dall'altra parte della cornetta, però quando vediamo quei numeri che vengono da città lontane capiamo subito insomma che si tratta sicuramente di telefonate commerciali, siano esse operatori telefonici, fornitori di gas, energia elettrica, Sky, Mediaset, insomma un po' di tutto, di più. Siamo in un mercato liberalizzato, evidentemente queste cose si possono fare, però è diventato molto pesante. Abbiamo parlato qualche volta con te, Francesco, di alcune situazioni, abbiamo dovuto anche procedere alla volta dei recessi per delle persone anziane, avevo raccontato di una ultra novantenne che aveva stipulato, senza saperlo ovviamente o volerlo, due contratti telefonici con due compagnie diverse. La situazione continua ad essere fuori controllo. Noi come Adico abbiamo tantissime segnalazioni settimanali, giornaliere, per quanto riguarda persone che ci chiedono disperate cosa si può fare per che non chiamino più a casa questi operatori commerciali. Il suggerimento che abbiamo dato a suo tempo appunto è quello di iscriversi al registro delle opposizioni, sappiamo che non è la soluzione definitiva, però insomma può sicuramente dare una mano a diminuire questo numero incredibile di telefonate che riceviamo tutti i giorni. Avevamo anche spiegato a suo tempo come raggiungere il registro dell'opposizione tramite internet, ci sono tutte le indicazioni per potersi iscrivere. Ora lanciamo anche un'altra proposta, ovvero Il Tirreno, che è appunto un giornale del gruppo Fineggi, del gruppo Espresso, ha lanciato una petizione online che è stata firmata da circa 50.000 persone su change.org. È una petizione che va proprio in questa direzione, cioè va a chiedere degli interventi immediati per bloccare questo marketing selvaggio che è diventato insostenibile. In particolare, tramite la petizione che invitiamo seriamente veramente tutti i cittadini, anche gli ascoltatori, a firmare, e viene chiesto intanto un registro unico delle opposizioni sia per numeri fissi che per numeri mobili. Ricordiamo che attualmente il registro unico delle opposizioni è relativo e legato ai numeri fissi, però attualmente riceviamo anche molte telefonate moleste anche sui cellulari, forse perché anche inavvertitamente noi lasciamo i nostri numeri al supermercato o ad altri negozi e non ci rendiamo conto che poi questi numeri diventano pubblici, vengono diffusi anche appunto a questi call center. Sì. Poi nella petizione viene chiesta la revoca universale del consenso a ricevere telefonate commerciali. Cioè si dice, dal momento in cui io mi iscrivo al registro delle opposizioni basta, non devo più ricevere telefonate commerciali. Allo stato attuale continuiamo a riceverle e la spiegazione è semplice, perché molte telefonate arrivano dall'estero, per cui dall'estero il registro delle opposizioni non funziona. Invece vogliamo far sì che questo che valga ovunque. E poi con la petizione si chiede l'istituzione della responsabilità condivisa fra call center e committente delle chiamate nel caso in cui non venga rispettata la volontà dell'abbonato e di non ricevere più chiamate. Quindi insomma si va a dire praticamente che i responsabili sono sia il call center sia chi gli ha affidato insomma le telefonate, quindi in questo caso il fornitore o il gestore. In poco tempo ha già raccolto 50.000 firme, però dobbiamo essere milioni veramente, perché ci deve essere una svolta. Lo chiediamo, sai benissimo Francesco, l'abbiamo già chiesto anche noi da tempo e siamo contenti insomma che anche un giornale come Il Terreno abbia lanciato questa petizione. Benissimo, poi ricordiamo che si può chiedere di, se uno ha il telefono fisso, di, che non venga messo il numero nei, negli elenchi telefonici. Si può eventualmente attraverso gli smartphone di adesso rifiutare automaticamente alcuni numeri di telefono, quindi dicendo al proprio telefonino se arriva una telefonata da questo numero piuttosto che da quello, non farmela neanche ricevere la telefonata. Quindi ci sono delle possibilità anche in qualche modo come singoli privati che possiamo fare per cercare di tenere distanti questi disturbatori della quiete pubblica, diciamo così. O se no, hai perfettamente ragione, e tra l'altro appunto sicuramente ci si può difendere probabilmente di più col telefonino che col telefono di casa, perché purtroppo anche se non ci mettiamo sull'elenco telefonico, comunque i nostri numeri di telefono possono essere facilmente reperiti, recuperati anche in altra maniera. Col telefonino è vero, possiamo utilizzare alcuni mezzi, però più noi utilizziamo alcuni mezzi, più i call center si fanno furbi. Io personalmente, non so se sono più sfortunato di altri, ricevo credo forse 5, 6, 7 telefonate al giorno, probabilmente le ricevo anche perché non rispondo a queste telefonate commerciali. Ecco, un altro invito ovviamente, soprattutto anche alle persone più anziane che hanno sempre un po' la paura di non rispondere perché che sia il nipote eccetera, se voi avete un telefono che dimostra il numero da cui sta arrivando la telefonata, si può anche capire che se una persona sta chiamando da Milano, Napoli e noi siamo di Venezia per esempio, si può essere benissimo insomma che siano telefonate commerciali, quindi si può direttamente evitare di rispondere, senza togliere però che queste telefonate fanno sì che sia un disturbo, una certo. persona sta riposando alle 2 del pomeriggio sul divano, comunque deve alzarsi, che poi non risponda a un altro discorso, deve alzarsi, vedere chi è, ragionare e dopo magari tornare a fare il sonnellino ormai disturbato. Noi diciamo che siamo stanchi perché le persone ci segnalano questa situazione e noi stessi siamo protagonisti di telefonate selvagge. Grazie quindi all'Adico, che ritroviamo tra un paio di giorni per un altro argomento. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.